se un gay, un omosessuale, posso capire che lo fai con uno con tuo coetaneo, con un maggiorenne, ma sono un ragazzino di 15 anni, fate una vergogna. E infatti qui la c'è una storia, ragazzi, con i cioè, l'elemento è un ragazzino di 15 anni, questo è proprio senza cuore, senza Cristo nemmeno. Vai, ferme! Ma guarda, io ho un complotto e non ci faccio l'amore, hai capito? Pronto? Tu che fai l'amore con Alessio? Hai capito? Non io, hai capito quello che quello è per il fatto che Claude è amico mio e avete rovinato voi, l'avete... Ne stavate sempre sopramodulando, tanto se ne rende un baccone, poi diventa un pezzo di lui. Io ve lo bevo, io ce la ragazza, ne sto facendo la ragazza, è una bella faccia tua. Capito? Non è che io non ti voglio far scendere adesso qua, perché io a questo... Anzitutto, che mia madre non è di quelle che dici tu, perché mia madre, grazie a Dio, la mattina si alza alle 8 e c'è sempre da fare, capito? Poi, anzitutto, io a Grotte l'ho sempre difeso, anche se si sa difendere da solo, hai capito? Come quando risponde lui, gli altri fanno un peggio, va bene? No che io non tengo quei minorenni, perché io quei minorenni non ci faccio l'amore. Perché Grotte quando mi dice floscio, se lo dice davvero a me non me ne frega niente. Ne puoi dire pure che sono un finocchio, ma io non è che mi sto riscattando per quello, hai capito? Perciò, lui può dire quello che gli pare, Pinguino può dire quello che gli pare, io non è che mi sto riscattando per quello. A te ti fa male, perché non c'è qua te e ne ha quell'altro. Perché, vedi, Pietro sì, ha detto la verità, dice, tu hai cercato a noi. Cos'è che ho cercato a voi? Pietro è venuto perché ha telefonato a casa sua, che mi ha telefonato a casa di lei. Perché io non avevo il numero di Antonio, perché se no mia madre avrebbe parlato direttamente con Antonio e parlare bene in frequenza, di non è importante. Ecco, perché hai capito? Perché io quando prometto una cosa a Antonio, la faccio, però per colpa di uno va bene, d'accordo? Perciò a me non mi interessa quello che dicono gli altri o quello che vanno a dire gli altri, perché a me non me ne frega niente, capito? Comunque, tu dici Antonio e quindi dici, vabbè, questo sarà in condizione con te. Però io non è che vado a fare nera. Allora, secondo te con Pinguino io ci facciamo Io con Grotte ci ho sempre scherzato. E se lui entra nel mio canale vuol dire che fa piacere stuzzicarmi. Se no avrebbe fatto questi e basta. Tu ne sei gelosa perché non ti cerco da te e non cerco a voi perché siete mangiori. Con te cosa mai faccio che ti sposate? Con gli altri cosa faccio con gli altri che... Perciò io non ho voglia né... Se non stai facendo proprio per tornare a arrabbiare tanto non riesci. Perché io non mi incavolo più per certe stronzate che dite, capito? Perché anzitutto io glielo fare parecchino. Anche se lui stava scherzando io lo faccio. Poi se non accettava pazienza, a me non me ne frega niente. Però io glielo volevo fare. Però mia madre si è fatta a casa di Alessio per dire di comportarsi bene. In frequenza, di non dire parolacce. Se poi ha fatto male, vabbè, non stare proprio a nessuno, a me avvenzate perché tanto a me non mi interessa, capito? Tanto vedi, non sto tappando più a voi, né a te, né a Valencia, né a nessuno. Perché ormai mi ho fatto altri amici meglio di voi, capito? Perché Grotte l'hai rovinata tu e io adesso glielo dico a padre quando mi telefona, glielo dico che quando l'ho chiamato e non fanno più uscire con voi, basta. Detto questo, ho detto tutto. Io aspetto la telefonata del padre e poi vedremo chi ha ragione e chi ha torto. Perché il padre tanto me l'ha detto, il padre di Grotte, hai capito? Perché c'ha le frequenze anche alte, il padre, e ascolta anche su questi canali. Ci ha sempre parlato col padre. Che il figlio vuole sempre a me, perché sa che io ragiono meglio di lui. E Grotte questo te lo può dire. Ma come non te lo dice? Perché fai pietà, va bene? Perciò non te lo dice. Perché con Grotte io ci ho parlato sempre bene. Non ho mai sputtanato, non ne ho mai detto niente, capito? Non ho sputtanato solamente una volta che gli ho detto così, scherzando, gli ho detto Anton, ma tu mi stai prendendo in giro. Allora io gli ho risposto male. Ma perché mi hanno riferito gli altri CD che mi stanno prendendo per il culo? A me se Grotte mi prende per il culo non me ne frega nulla, hai capito? Io non mi sto la mano per quello. Io sono entrato qua perché avete detto a Pinguino che rompavate non lo so che cosa. Pinguino, se vi risponde male, vuol dire che voi gli avete fatto qualcosa e fa bene. Perché vedi, Pinguino com'è ci scherza, anche che mi dice che mi rompe il culo, mi fa questo, mi fa quell'altro. Io a Pinguino ho detto, gli ho risposto anche a tono, va bene. Io sì, scherzo con Pinguino, parlo con Pinguino, perché a me un Pinguino ci ragiona, non è come te che butti il fiato e basta.